Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati ad Ondivago. In questo secondo appuntamento inauguriamo uno spazio che era da tempo nei nostri progetti. Si chiama Caffè Filosofico. Gli spazi per la filosofia nel mondo della scuola e della comunicazione sono sempre più ridotti. Ondivago, producendo dei moti contrari all'involuzione culturale, vi offre l'opportunità radiofonica di confrontarvi con il mondo delle idee. Potete intervenire iscrivendovi al nostro gruppo su Facebook, che si chiama Ondivago Programma Radiofonico, e postare i vostri commenti. Abbiamo chiamato la rubrica Caffè Filosofico, ispirandoci da un lato ai caffè filò francesi e dall'altro alla bevanda in quanto tale, come concentrato ed energizzante. Inoltre abbiamo deciso di dare un'impronta italiana alla rubrica. Inauguriamo questo spazio con una domanda capitale. Che cos'è la filosofia? Ebbene sì, la risposta non è per nulla semplice. E pare incorrere nel rischio di definire troppo o troppo poco. La filosofia ha sicuramente un'origine che proviene dal mondo greco e sta alla base della cultura occidentale. Filosofia significa in greco amore della sapienza. Philein vuol dire amare e Sofia sapienza. Nel mondo greco indicava un sapere organizzato che comprendeva discipline scientifiche come la fisica, si pensi a quella di Aristotele, mentre oggi la filosofia è un sapere specialistico. Questo sapere, che si sviluppa attraverso le varie articolazioni del pensiero, viene declinato in modalità che attualmente vanno dalla filosofia teoretica alla bioetica, ad esempio. Se vi aspettate delle risposte, studiando filosofia, incorrerete in un sicuro ostacolo. La filosofia, infatti, si pone il compito di problematizzare. Cioè, è una fucina di punti interrogativi. In fondo, i bambini hanno un atteggiamento filosofico. Un atteggiamento filosofico più degli adulti, nel fare un mucchio di domande. Aristotele ci dice nella Metafisica che la filosofia nasce dalla meraviglia. Enrico Berti, nel suo libro In principio era la meraviglia, le grandi questioni della filosofia antica, scrive e spiega che cos'è questa meraviglia. Si potrebbe pensare ad uno stupore di carattere emotivo. Invece, a quanto pare, non si tratta di questo. La meraviglia non è ammirazione, ma è un atteggiamento puramente teoretico, scrive Berti, è consapevolezza della propria ignoranza e desiderio di sottrarsi a questa, cioè desiderio di apprendere, di conoscere, di sapere. È l'atteggiamento di Socrate. Socrate è colui che fa dell'ignoranza professione e ci mostra un'altra caratteristica fondamentale della filosofia, la dialettica. Solo dialogando e ragionando assieme possiamo scoprire se una tesi è vera o meglio se si avvicina alla verità. La verità per i greci si chiama aletheia e contiene una A privativa. La verità è un non nascondimento. Il filosofo si affranca da questo sapere legato al mito per intraprendere una via della conoscenza in cui gli dèi non sono più al centro. Emerge la conoscenza di se stessi e del mondo circostante, della natura. Celebre è il motto socratico «Conosci te stesso». Certo, i cammini della conoscenza non sono facili, ma in questo percorso il filosofo ha come la sensazione di superare una condizione umana che lo rende schiavo, come gli uomini prigionieri nella caverna platonica. E quindi ha la sensazione di poter raggiungere una nuova libertà. Ad Ondivago, il caffè filosofico. ondivago.com. Il microfono di Ondivago si fa peripatetico. Difficile parlare di filosofia in un periodo come il nostro, attraversato da una forte crisi economica. La filosofia, infatti, sfugge ad una collocazione utilitaristica. Non fa mercato e, come molti altri saperi di carattere umanistico, pare non servire proprio a nulla. Nella scelta di un percorso di studi, coloro che desiderano iscriversi a filosofia vengono visti come esseri fuori dal mondo, figli di papà, oppure semplicemente intellettuali complicati con la testa fra le nuvole. La nostra società attraversa senza dubbio una crisi, e non si tratta solo di una crisi di carattere economico, ma anche di identità culturale, di coscienza collettiva. Siamo un paese occidentale che deve ripensare se stesso. In questo la filosofia e le discipline umanistiche hanno un ruolo fondamentale. Evidentemente la svalutazione che è stata fatta in Italia di percorsi di studio e di crescita formativa e critica è frutto di miopia e non è priva di una certa attitudine al controllo delle masse e alla loro omogeneizzazione. Il fatto che in Italia trovi più facilmente lavoro un diplomato e venga scoraggiata l'acquisizione di titoli accademici da parte degli stessi atenei dimostra che il potere vede male, con fastidio più che con timore, il sapere. E ciò non è certo una novità se pensiamo alla fine che ha fatto Socrate. Il coraggio della filosofia e del filosofo è quello di porre degli interrogativi, di affrontare problemi comuni a tutti, giacché la capacità di filosofare non appartiene soltanto ai professori, ma a tutti noi in quanto esseri umani razionali. La crisi economica denuncia dei calcoli negativi di borsa. Ma è giusto che possa influire sulla nostra felicità? Perché i diritti civili sono diventati così fragili? E che ne è della nostra libertà? E si tratta di una libertà da qualcosa? Oppure si tratta di una libertà di fare qualcosa? O entrambe? La filosofia ci può accompagnare in una ricerca che riguarda direttamente la nostra vita. Più che pensieri specialistici e insulsi volti ad interpretare questo o quel pensatore. Il nostro caffè filosofico procederà per temi, invitando tutti noi a ripensare la nostra esistenza. Interrogheremo filosofi dell'antichità e di altre epoche alla ricerca di prospettive possibili più che di risposte, alla ricerca di una conoscenza i cui dati sono sempre parziali e falsificabili, come direbbe Popper. E grazie a questo possiamo parlare di un miglioramento potenzialmente infinito dell'essere umano. Il caffè filosofico avrà una cadenza mensile all'interno del programma Ondivago. Per ogni puntata vi proponiamo una serie di libri che affrontano i temi trattati. In questo caso troverete i titoli sul nostro sito ondivago.com. Un saluto dal caffè filosofico, acceleratore radiofonico dei nostri pensieri. Introduzione per l'anno scolastico 1845-1846. Tratto da Elementi di filosofia di Salvatore Mancino. Quarta edizione palermitana corretta dall'autore, Palermo, nella Reale Stamperia e Libreria, 1846. Non vi aspettate che in questo giorno, in cui mettete per la prima volta il piede nell'augusto santuario sacro alla Sapienza, io venga come costume a tesservene un lungo elogio, magnificandovi la sua utilità. E scopo di questa scienza è investigare i principi generali dell'umano sapere, studiare i rapporti dell'uomo col mondo e con Dio, indagare l'alta destinazione a cui la natura umana è chiamata. E basta pure lo esporvi ciò, perché possiate tutta misurarne la dignità e la importanza. Le altre scienze, questo o quell'altro ramo particolare del sapere, prendono di mira, quale le composizioni e scomposizioni dei corpi, quale il corso degli astri, quale la misura della quantità e così delle altre. Questa però studia il sapere in se stesso, stabilisce i rapporti tra il sapere e l'essere, e però con ragione è stata chiamata la scienza prima, la scienza delle scienze. Essa, lasciando un rango subalterno alla immaginazione, coltiva le forze della ragione. La onde è destinata a formare pensatori robusti ed illuminati. Essa dirada i pregiudizi e gli errori, essa pone i principi del bene operare, essa è la vera consigliera della vita. Elementi di filosofia di Salvatore Mancino. Avete ascoltato il caffè filosofico di Ondivago. Ritrovate il nostro programma sul sito ondivago.com e intervenite sul nostro gruppo di Facebook. Ondivago è un programma condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com